Dialogo ventunesimo. Raccontò Abu Huraira: un beduino, avvicinatosi al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, gli rivolse la parola dicendo: dimmi ciò che devo fare per avere la certezza di andare in paradiso. Il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, gli disse: devi adorare Allah senza nulla associargli nella sua divinità, eseguire le devozioni quotidiane obbligatorie, pagare l'imposta coranica, digiunare nel mese di Ramadan. Il beduino disse: per colui nelle cui mani è la mia vita, non farò né più né meno di ciò che mi hai detto. Quando il beduino se ne fu andato, il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, si rivolse agli astanti dicendo: chi vuol vedere come è fatto un uomo che appartiene alla famiglia del paradiso, guardi quello.